Rientriamo in diretta con l'ultimo collegamento dal presidio che a questo punto non è più in via Mattei, si sta muovendo per spostarsi verso Piazza Maggiore dove appunto poi ci sarà l'assemblea pubblica. Siamo in collegamento con David, che intanto saluto e ringrazio per essere qui con noi. Ciao David. Ciao a tutti e a tutte. E appunto, per prima cosa ti chiederei un po' di aggiornamento. L'ultima volta che ci siamo collegati con la piazza era in Piazza dei Colori, ora vi state spostando, quindi ti chiederei intanto dove siete e come ci si muove verso Piazza Maggiore. Allora, in questo momento il corteo si è preso un attimo di meritata pausa a riposo e all'ombra a Porta San Vitale. Ci stiamo un attimo ricompattando e riorganizzando per la logistica del trasporto dei bagagli degli a questo punto ex utenti del centro Mattei che sono con noi e che stanno venendo in piazza. Il tempo di organizzarsi e il corteo ripartirà con direzione appunto Piazza del Nettuno, dove l'assemblea partirà alle 18:30. Perfetto, per prima cosa forse ti chiederei un po' una valutazione. Prima sentivamo anche le parole di Cecilia di ADL Cobas con cui ci eravamo collegati questa mattina che parlava anche di quello che sarebbe dovuta essere, diciamo, la presa di posizione da parte di Palazzo D'Accursio da una parte e dall'altra anche da quella che era lo scopo diciamo principale del presidio, quindi fermare in qualche modo la partenza dei pullman. A questo punto forse si possono iniziare a trarre alcune valutazioni su questi due temi. Sì, possiamo fare le prime valutazioni sui fatti che abbiamo. Ti posso già dire che i pullman sono arrivati al Mattei pochi minuti fa. Si tratta di 3 pullman turistici da 50 posti e un 16 posti. Sono entrati dentro i cancelli, al momento si parla di già una decina di ospiti pronti per il trasferimento e forse un'altra decina, dozzina che si stanno preparando. Per il resto il centro in questo momento non ha più di queste 22-30 persone, il centro è stato svuotato, la risposta è stata un momento incredibile. Di solidarietà e di lotta comune. Quello che si è verificato davanti oggi al Mattei è stato una risposta della città che ci ha permesso di dire che a Bologna non si deporta, Bologna è una città che accoglie, chi è qui rimane qui e questo vuol dire che a un certo punto immagino che a Palazzo D'Accursio ma che alla prefettura si siano dovuti accorgere che l'intera operazione stava fallendo sotto i loro occhi. Sappiamo che si sono aperti dei tavoli. Adesso noi giochiamo il secondo tempo della partita in Piazza del Nettuno, dove dobbiamo trovare una soluzione per queste persone che hanno rifiutato il trasferimento su Caltanissetta. E questo è il risultato che abbiamo raggiunto in questa fase iniziale della lotta che continua da 18 in poi in Piazza del Nettuno. Certo, allora visto che questa mattina appunto parlando anche di come dell'accoglienza e di come si fossero offerti dei posti da parte sia di associazioni, in realtà cittadine, ma anche di singoli, di singole, comunque una cosa che tu dicevi era che appunto benissimo che ci siano queste offerte, ma in realtà servirebbe una risposta appunto dal territorio anche amministrativa. In qualche modo si discuterà anche di questo all'assemblea, immagino. Sì, assolutamente. Noi abbiamo e manteniamo dei contatti con tutte le realtà, le persone, i singoli cittadini, le parrocchie, le associazioni che si sono fatte vive quest'oggi, che hanno dato la loro disponibilità per un tot numero di posti, però questa per noi rimane assolutamente un piano appunto B. Per noi la soluzione è venire dal comune a questo punto, devono trovare loro i posti per queste persone, devono trovare dei posti in accoglienza sul territorio di Bologna. Non può essere che l'accoglienza sia delegata alla solidarietà umana di privati cittadini. Non può essere che siano questi privati cittadini a levare le castagne dal fuoco alla prefettura e al comune di Bologna. Perfetto, ti chiedo solo un'ultima cosa, una conferma in realtà, nel senso, nel collegamento prima appunto con Alessandro, lui ci diceva che gli ospiti dell'hub che appunto lo hanno lasciato prima per evitare il trasferimento, grazie al supporto dell'ASG e dell'angolo legale che era in presidio appunto da questa mattina, pur avendo firmato, diciamo, per uscire, potranno essere reinseriti nel percorso di accoglienza? Quello che è stato firmato è stata una dichiarazione in cui gli ospiti dichiaravano di rifiutare questo trasferimento a queste condizioni per il fatto che avrebbe violato i loro diritti. Con questa dichiarazione, che appunto è stata scritta dagli avvocati dell'ASGI, noi speriamo di dare una possibilità in più per il ricorso di queste persone e per la loro e che dia più forza alla loro richiesta di rientrare in un percorso di accoglienza dal quale adesso, in base alle informazioni che abbiamo, sarebbero fuori. Perfetto, allora io ti ringrazio molto David anche per l'energia di esserti ricollegato con noi, visto che appunto era da diverse ore che ti trovavi in presidio, e a questo punto direi che ti saluto appunto e ti ringrazio ancora una volta. Grazie mille, buona serata. Ciao.